Punto e a capo. Una settimana di attualità. Una buona giornata da Alessandra Tedesco, punti a capo, una settimana di notizie in un'ora. La settimana è stata particolarmente importante per la politica, con la verifica parlamentare e soprattutto gli strascichi del raduno della Lega a Pontida di domenica scorsa. Ma è stata anche la settimana delle polemiche sulle intercettazioni, degli esami di maturità, dell'arresto di Lele Mora. Una settimana inoltre in cui abbiamo parlato molto a Radio 24 di mafie, perché a Lamezia Terme c'è stato un festival sui libri, appunto, sulle mafie. Ma andiamo per ordine. Dicevamo che la settimana politica è stata influenzata dagli strascichi di Pontida. E allora facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a domenica, quando c'è stato il raduno leghista e Bossi ha parlato. Sentiamo. Padania! La Lega non strappa ma sfida. In equilibrio tra Prato e Palazzo, il Carroccio mette in discussione la premiership di Berlusconi e detta le proprie condizioni, cercando negli antichi slogan la pozione della ripresa dopo le sberle elettorali. Secessione, urla come un tempo il popolo di Pontida e il senatur ascolta. Volete la secessione, ci si prepari. Sul pratone uno striscione invoca Maroni, presidente del Consiglio. Stavolta l'insofferenza verso l'alleato di sempre è forte, ma se andiamo alle elezioni anticipate, avverte Bossi tra i fischi, favoriamo la sinistra. All'amico Silvio però il senatur, col pollice verso ben in mostra, ricorda che la Lega sa dire anche stop. Non è mica detto che le prossime elezioni non andremo con Berlusconi, dipenderà dalle scelte che verranno fatte. Ministeri al nord, riforma fiscale, fine delle missioni all'estero, revisione del patto di stabilità. Caro Giulio, manda a dire a Tremonti il senatur, se vuoi i voti della Lega non mettere il nord in ginocchio. Le quote latte, la pressione fiscale e i flussi migratori, con la magistratura che è a favore dei clandestini, tuona il ministro Maroni, tornano così nei comizi del Sacro Suolo, dove si raccolgono sottoscrizioni per lo spostamento in Lombardia dei dicasteri. Bossi racconta che il premier aveva già firmato, salvo poi farsela addosso, nota. Il leader della Lega dice di non voler mandare il paese alla malora, ma di fronte alle insofferenze della sua gente, a Berlusconi ricorda che nulla è più scontato. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pontida. Dalla Lega dunque la richiesta chiara di spostare alcuni ministeri al nord e di interrompere la missione in Libia. Sullo spostamento dei ministeri al nord c'è stata una spaccatura nel PDL, con il sindaco di Roma Alemanno e la presidente della regione Lazio Polverini che hanno intrapreso iniziative concrete proprio per bloccare un'ipotesi del genere. Un ordine del giorno al decreto sviluppo da parte di Alemanno e una raccolta di firme da parte della Polverini. Ma poi c'è stato un vertice notturno fra PDL e Lega e si è trovato un accordo. Al nord solo la possibile apertura di sedi di rappresentanza. Punto e a capo. Riprendiamo a parlare della settimana politica con la polemica sullo spostamento al nord di alcuni ministeri. Contrario, l'abbiamo già detto, il sindaco di Roma Alemanno. Sentiamolo nel suo intervento di martedì a 9 in punto al microfono di Oscar Giannino. La realtà è che verrebbe la tentazione di dire prendetevi questi ministeri perché dal punto di vista del dare e dell'avere non ci siamo proprio. Noi per sostenere le funzioni di Roma Capitale dobbiamo affrontare molti problemi, molti disagi e molti costi aggiuntivi. Pensiamo solo a tutte le manifestazioni che ogni giorno vengono fatte a Roma e che costituiscono un grande problema dal punto di vista del disagio e dal punto di vista anche di costi, di pulizia, di sistemazione. Da questo punto di vista abbiamo dovuto chiedere anche un nuovo regolamento, chiediamo con forza un nuovo regolamento per limitare queste manifestazioni. Quindi in realtà una parte, solo una parte del debito accumulato dalle precedenti amministrazioni a Roma deriva da questo sbilancio fra il dare e l'avere. Però questo non toglie che Roma ha una missione e questa missione è quella di essere capitale e di essere capitale che rappresenta l'unità dello Stato e l'unità della nazione. Quindi da questo punto di vista immaginare di prendere una funzione in Roma Capitale e portarla altrove è un costo in più, è una mancanza di efficienza, è la rottura di un simbolo che non si riscontra in nessuna parte d'Europa. Gli uffici di rappresentanza già esistono, quindi non sarebbe nessuna novità, già ci esistono uffici di rappresentanza dei vari ministeri in giro per l'Italia, quindi non sarebbe, diciamo così, una macchina indietro chiara e completa, però voglio sapere se è definitiva. Altro tema caldo in politica, quello delle intercettazioni, venuto di nuovo alla ribalta con l'inchiesta sulla P4. Risentiamo allora il servizio andato in onda giovedì. tornano alla ribalta le intercettazioni e torna l'idea, mai sopita nella maggioranza, di una legge bavaglio. Il PDL attacca sulle rivelazioni della P4, sia con il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto, sia con il ministro della Giustizia Angelino Alfano. Per Cicchitto le rivelazioni su Bisignani sono un gioco al massacro. Mi sembra che sia davanti a tutti l'esistenza di un autentico scandalo, è un gioco al massacro che va in qualche modo interrotto, anche perché è un gioco unilaterale. Sul fronte dei costi interviene il guardasigilli Alfano. Tutte le intercettazioni che leggiamo sui giornali, oltre ad essere penalmente irrilevanti, non sono gratis. Il debito accertato nei confronti delle ditte e degli operatori telefonici è di 1 miliardo di euro. E nel PDL si pensa ad un provvedimento per frenarne la pubblicazione, addirittura un decreto. Ma dall'opposizione arriva lo stop del PD. Massimo D'Alema. Sinceramente mi sembrerebbe del tutto inopportuno intervenire per decreto, diciamo. Certamente il problema esiste. Mentre il vicepresidente del CSM Michele Vietti chiosa: non è mai troppo tardi per una legge sulle intercettazioni. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Intanto ieri il ministro Frattini ha detto che una legge sulle intercettazioni deve essere fatta prima dell'estate. Si è augurato che sia ampiamente condivisa. Sempre dal punto di vista politico è stata anche la settimana della verifica in Parlamento, una verifica chiesta da Napolitano dopo che c'era stato un rimpasto di governo. Silvio Berlusconi si è presentato prima al Senato martedì, poi mercoledì alla Camera. Ha detto che non sarà premier a vita, ma no ad una crisi al buio. Sarebbe una follia, una sciagura finanziaria. Queste le parole usate dal premier. Berlusconi ha poi ribadito l'alleanza con Bossi e la Lega. Hanno provato a dividerci e ha detto: non ci sono riusciti, non ci riusciranno mai. E dopo questa verifica possiamo dire quindi che al momento la maggioranza tiene. Il commento di Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. C'è un po' questo doppio binario, no? C'è la sensazione generale comunque di una maggioranza che ha dato quello che poteva dare poco tanto e che sia sostanzialmente in una condizione di quasi paralisi, e tenuta su insomma anche da questi responsabili, da questo gruppo parlamentare. Sembra che non abbia uno slancio dentro in grado di rassicurare l'opinione pubblica. Dall'altra parte però la maggioranza esiste e i voti in Parlamento la sostengono. Ieri ha avuto 317 voti sul decreto sviluppo, sulla fiducia, che non sono certo pochi. E quindi c'è questo doppio binario. Il discorso di Berlusconi è esattamente nel solco di quello che sto dicendo. È un discorso che, a prenderlo alla lettera, promette molte cose. Nella sostanza rivela soltanto una capacità di tenere insieme il centrodestra, la sua maggioranza, di avere sostanzialmente dalla sua parte Bossi, nonostante la grande freddezza della Lega, il grande malumore della Lega nei confronti del Presidente del Consiglio, e quindi la prospettiva è di un governo che passa l'estate, arriva l'autunno e cerca di durare nel tempo. Con quali effettive capacità di incidere sui problemi del Paese, questo è tutto da vedere. A proposito della Lega, tu hai citato la freddezza di Bossi della Lega, e Bossi ha detto belle parole ma aspettiamo i fatti. Non c'è però anche il rischio che la Lega stessa parli, ma comunque questa minaccia di tagliare le corde con la maggioranza poi non sia verificata nei fatti? Ma insomma, la Lega in questo momento è piena di problemi e al suo interno è divisa, profondamente lacerata. Il problema della Lega è tutto intestino. Rispetto a Berlusconi è chiaro che c'è tutta una parte del movimento leghista e anche, diciamo, delle sue espressioni politiche che è ormai molto diffidente verso Berlusconi e ritiene che questa stretta alleanza sia un danno per il Carroccio. Poi c'è Bossi, il quale non è che sia freddo verso Berlusconi. Bossi è ben convinto di non poter fare altro che appoggiare Berlusconi. Poi è ovvio che se i due giornalisti gli chiedono che come ha trovato il discorso, non è che può dire: mi piacciono le parole, non mi interessano i fatti. Dice: aspettiamo i fatti dopo le parole. È il minimo che possa dire, onestamente. Quando ieri ha detto nulla è scontato, è una frase che non si può non dire, ma che non è che rivela un'altra strategia. L'unica strategia di Bossi è restare accanto a Berlusconi. Poi la Lega è un partito che è sottoposto a una grande pressione in questo momento, e non mi stupirei che di qui a qualche tempo

ci sono molte figure di professionisti. Quello che più spesso succede è che questi medici vengano utilizzati sulla base della loro mancata competenza, cioè sul fatto che le consulenze di parte insistono su aspetti che sono poco conosciuti da chi invece deve aiutare i giudici, oppure sul fatto che queste consulenze sono costruite con tante certificazioni, per cui poi chi deve valutare alcuni aspetti invece che altri spesso si trova montagne di carte e documenti che certificano la presenza di un disturbo piuttosto che di un altro, che richiede trattamenti complicati e difficili. Punto e a capo. Una settimana di notizie in un'ora. Altra notizia della settimana: gli esami di maturità per 500.000 di studenti. Mercoledì c'è stata la prima prova, la più attesa, il tema di italiano. Ecco le tracce uscite. Sul web si erano rincorse le ipotesi Fukushima, Unità d'Italia, beatificazioni di Papa Wojtyla. Invece, come spesso succede, le tracce per i temi della maturità hanno smentito molte previsioni. Quest'anno si punta su Lucca, una poesia di Ungaretti per l'analisi del testo. Per il saggio breve il tema amore, odio e passione, con brani di Verga, D'Annunzio e Svevo nell'ambito letterario, mentre nell'ambito socio-economico si analizza Siamo quello che mangiamo, nell'ambito scientifico la figura di Enrico Fermi e nell'ambito storico destra e sinistra. Per il tema storico, una frase dello storico Hobsbawm e la richiesta di analizzare gli anni 70. Infine, per l'attualità, una frase di Andy Warhol: nel futuro ognuno sarà famoso per 15 minuti, per analizzare il valore assegnato oggi alla fama effimera. I maturandi sono circa 460.000. Svolgete questa prova con serietà per dare il meglio di ciò che avete studiato durante l'anno, e l'invito rivolto loro dal ministro Gelmini, che ha promesso vigilanza alta. Intanto però il ministero è investito dalle polemiche per l'errore nella griglia di valutazione preparata dall'Invalsi per i test di terza media. L'istituto ha reso disponibile una nuova griglia per i punteggi, ma molti insegnanti sono stati costretti a rifare le correzioni e sindacati e opposizioni vanno all'attacco del ministero. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Fra le tracce uscite, il tema sull'alimentazione è stato quello più gettonato. Lo ha scelto il 42,7% dei candidati. Al secondo posto nelle preferenze dei ragazzi, la traccia sulla fama, che prende spunto da una frase di Andy Warhol, lo scelto dal 26,4% dei candidati. E sentiamo il commento alle tracce da parte di Paola Mastrocola, insegnante di lettere e scrittrice, al microfono di Paolo Piacenza. Mi piacciono, sono temi classici ma anche molto pertinenti con l'attualità. Direi ad esempio l'ultimo dello spunto di Andy Warhol, mi pare che intanto penso che sarà il più scelto, e comunque bene, perché sarebbe anche un invito ai giovani a riflettere su se stessi, che sono i primi a credere in un successo appunto estemporaneo e immediato. Quindi perché no fare una specie di autocritica? Questo è un invito che mi piace. E poi il tema di letteratura, bene, Ungaretti è sicuramente un autore che si fa anche molto, si fa fin dal biennio delle superiori, in particolare una poesia non così facile ma comunque molto bella. Ecco, un po' complesso invece forse il tema storico del saggio breve dedicato a destra e sinistra e alla partecipazione giovanile. Sì, però perché no? C'è un ritorno alla politica da parte dei giovani, almeno così si dice molto, e quindi perché non sollecitarli proprio su questo tema? In classe se ne parla sempre abbastanza, poi l'impegno è un tema che insomma a me prende moltissimo, impegno o disimpegno, che cose veramente, e poi mi pare che la scelta degli autori sia giustamente varia. L'appartenenza è un grande tema anche non solo politico, ma sociale, psicologico, no? La libertà di pensiero anche legata a questo. No, mi piace, ce n'è da dire. Punto e a capo. Passiamo alla cronaca. La notizia della settimana in questo caso è stata l'arresto dell'agente dello spettacolo Lele Mora, avvenuto lunedì. Sentiamo. Dal lusso della Costa Smeralda alla cella di un carcere, la carriera dell'agente de VIP Lele Mora sembra aver toccato il punto più basso della sua parabola. la Guardia di Finanza di Milano ha arrestato il manager dello spettacolo, accusato di bancarotta fraudolenta pluriaggravata per il fallimento della società LM Management. Il reale pericolo di fuga all'estero e l'idea che disponga di denaro in Svizzera hanno convinto il GIP Fabio Antezza a firmare l'ordinanza di misura cautelare in carcere. Per i magistrati milanesi, Dario Mora, detto Lele, avrebbe distratto fondi alla società per oltre 8 milioni di euro, destinati in molti casi al suo vantaggio personale. In particolare, la LM Management avrebbe emesso fatture gonfiate o per operazioni inesistenti a un imprenditore compiacente, che poi ha restituito a Mora più di 3 milioni di euro, mentre gli altri 5 milioni sono stati utilizzati per comprare immobili, tra cui quello di Porto Cervo, intestati alla Immobiliare Diana, un'altra società a lui riconducibile e dichiarata fallita nei mesi scorsi. Lele Mora viene così colpito da un'ennesima tegola giudiziaria, quando lunedì prossimo inizierà l'udienza preliminare del procedimento che lo vede indagato per induzione e favoreggiamento della prostituzione, anche minorile, in relazione al caso Ruby. Flavia Carletti, da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro caso di cronaca della settimana è la svolta nelle indagini sull'omicidio di Melania Rea. È indagato il marito, sentiamo. Una svolta importante, ma non del tutto inaspettata, è l'iscrizione nel registro degli indagati del caporale Salvatore Parolisi, marito di Melania Rea, scomparsa il 18 aprile e ritrovata due giorni dopo in un bosco del Teramano uccisa a coltellate. La decisione della procura di Ascoli Piceno potrebbe essere un atto dovuto per compiere ulteriori accertamenti sul militare, già stato ascoltato 3 volte come parte lesa. Gli inquirenti non avrebbero nuovi elementi su di lui, ma avrebbero riconsiderato quelli già acquisiti, esami medico-legali, tabulati telefonici, test dei RIS sui reperti e numerose testimonianze di chi si trovava a Colle San Marco, dove secondo il marito Melania scomparve. Al tempo stesso però pesano le bugie, le contraddizioni e le omissioni di Parolisi, che inizialmente non aveva raccontato di aver tradito la moglie con 2 soldatesse. Anche la sua ricostruzione rimane dubbia, infatti nell'invito a comparire in tribunale le località indicate come possibile luogo del delitto sono 4. Paolo Riva, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Una notizia che sta facendo discutere: la Giunta regionale del Veneto ha deciso di garantire la fecondazione assistita a carico del Servizio Sanitario Nazionale, quindi la paziente paga solo il ticket, per le donne fino ai 50 anni. La Giunta ha deciso dunque di alzare il limite di 43 anni proposto dal gruppo tecnico di medici che era stato incaricato dalla stessa regione di fare una relazione. Luca Coletto, assessore alla sanità della Regione Veneto, è intervenuto lunedì a 24 mattino al microfono di Alessandro Milan. Senta, assessore Coletto, lei ha già detto in una serie di interviste che effettivamente è una sorta di ispirazione, possiamo dire, venuta anche dal caso di Gianna Nannini, no? Una delibera Nannini, possiamo ribattezzarla così? Ma io, insomma, sono uno... Io apprezzo molto la cantante, la Gianna Nannini, grande artista, ha preso una decisione importante nella vita, quella di diventare a 50 anni, peraltro l'ha fatto all'estero. Ecco, io intento nella delibera approvata dalla Giunta con il Presidente Zaia è quello di evitare proprio che accada ciò, nel senso che le nostre mamme hanno il diritto eventualmente di trovare questo servizio all'interno del proprio servizio sociosanitario all'interno della propria regione, sotto diretto controllo dei nostri medici che la prenderanno in cura e verificheranno se c'è questa opportunità, perché evidentemente in Regione Veneto, non essendoci stati prima limiti di nessun genere e tipo, ma facendo riferimento solo ed esclusivamente alla legge 40, sì, che imponeva come unico limite che la donna fosse feconda, lei intuisce bene che una sorta di regolamentazione, cioè il tipo di tentativi quanti tentativi consentiti e un limite d'età massimo era necessario. È che questo limite d'età è contestato. Vede, anche molti ginecologi dicono: ma si presta a false illusioni, perché una donna a 50 anni è davvero un evento raro che possa rimanere incinta. Allora si rischiano di creare anche delle illusioni. Qualcuno dice si rischia anche di giocare con i soldi pubblici, assessore. Ma guardi, questa delibera l'abbiamo fatta proprio per non giocare con i soldi pubblici, nel senso che prima non c'erano limiti né di tentativi né di età. Secondo, poi io sottolineo sempre il fatto che le signore che intenderanno avvalersi, che hanno inteso avvalersi di questo servizio sanitario, evidentemente prima si devono sottoporre una visita, si devono sottoporre a delle verifiche e sarà il medico stesso a dire alla signora se ci sono buone prospettive o meno. Evidentemente un fisico è diverso dall'altro, primo. Secondo poi, io credo che ci voglia anche un minimo di umanità. Se una signora non ha mai tentato e a 50 anni intende fare una scelta, evidentemente c'è il libero arbitrio, noi lo rispettiamo, non si fa del male a nessuno, evidentemente deve essere prima informata e in tal senso faremo un regolamento collegato alla delibera in maniera tale che vengano chiarite tutte quante le situazioni psicologiche, mediche e tutto il collegato, che è un collegato importante, però non ci sentavamo noi di dire di no a una situazione del genere, anche nel presupposto, partendo dal presupposto anzi che se questa signora, se questa donna non aveva mai fruito di questo servizio in Regione Veneto piuttosto che in Italia, sarebbe stato scorretto negarglielo, in considerazione del fatto che ha pagato le tasse come tutte le altre. Punto e a capo. Dopo il risultato sul referendum sul nucleare in Italia, Radio 24 ha compiuto questa settimana un percorso di approfondimento sulle risorse energetiche tradizionali e rinnovabili, sulla loro integrazione e sugli sviluppi possibili. Risentiamo allora il servizio sul geotermico. Funziona 24 ore su 24 la geotermia, come il nucleare ma senza scorie. E un ambizioso programma geotermico potrebbe forse produrre altrettanta energia. Invece da decenni siamo fermi attorno a un gigawatt di potenza installata. Anche se da alcuni mesi si sono impennate le richieste di nuovi permessi di esplorazione che con l'addio al nucleare dovrebbero ulteriormente incrementarsi. Ma la domanda di fondo è: quanta energia possiamo produrre con la geotermia e quanto calore per riscaldare le case? Il fatto è che non sappiamo dare una risposta, perché una simile valutazione non è mai stata fatta. Sappiamo però che vaste aree del territorio italiano risiedono sopra vere e proprie miniere di calore, che oggi si possono sfruttare anche più largamente che in passato grazie alla maturazione della tecnologia ORC, che permette di produrre energia elettrica anche con temperature di poco superiori ai 100 gradi. E mentre il Ministero dello Sviluppo Economico sta finalmente elaborando un inventario delle risorse geotermiche, una società di ingegneria punta a realizzare un altro gigawatt sfruttando il calore del vulcano sommerso Marsili, un progetto pilota che potrebbe aprire le porte agli oltre 10 vulcani sottomarini del Tirreno. Maurizio Melis, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Punto e a capo. Siamo all'ultima parte di Punte a Capo, la parte dedicata alla cultura e agli spettacoli. In questo caso la notizia della settimana è stata la separazione fra George Clooney ed Elisabetta Canalis. Sentiamo. La notizia che la gran parte delle fan di George Clooney aspettavano è arrivata. Il divo di Hollywood e la velina italiana Elisabetta Canalis si sono lasciati. Lo hanno comunicato ufficialmente in una nota diffusa da Londra, dove l'attore americano è impegnato nelle riprese di un nuovo film. È molto difficile e molto personale, si legge. Per questo speriamo che venga rispettata la nostra privacy. Una richiesta che appare surreale, visto che è stata la stessa coppia ad offrirsi al pubblico per un biennio, regalando fiumi di immagini e filmati e facendo balenare più di una volta la possibilità del convolamento a nozze. Invece niente matrimonio per i promessi sposi e paparazzi a becco asciutto per l'estate 2011. Fine di un amore o termine di un contratto? Le male lingue, o forse i ben informati, propendono per la seconda ipotesi. La liaison sarebbe infatti stata messa su a tavolino nell'interesse di entrambi. La Canalis, in effetti, oltre a trasformarsi nella donna più invidiata del globo, è riuscita a imparare una lingua straniera e a metterla a frutto, non benissimo per la verità, al Festival di Sanremo. A George, invece, la procacità sassarese della showgirl sarebbe servita ad allontanare le voci sulla sua presunta omosessualità. Essere gay non paga, infatti, a Hollywood. L'outing di Keanu Reeves, per esempio, pare gli abbia fatto perdere gran parte del potere contrattuale nonostante il trionfo di Matrix. Ma forse queste sono chiacchiere da corridoio, frutto di persone ciniche e disincantate non disposte a credere che l'amore vero possa scoppiare anche tra belli e famosi. E se qualcuno continua a giurare che George Clooney sia in realtà da tempo fidanzato con un facoltoso nostro connazionale, si tratterà del solito invidioso. Roberta Pellegatta, Radio 24 e Sole 24 Ore. Gli oggetti parlano di noi e le aziende accompagnano la storia del nostro paese. I viaggi di Mammut, Babbut, Pigliut. Inca, Bamba, Lambadù, Cucù. Uè, cavernicoli, non siamo più all'età della pietra. Oggi si viaggia sicuri. La spalla di sicurezza raccorda il battistrada con il fianco del pneumatico, arrotondandone lo spigolo. Per questo Sempione Pirelli elimina l'effetto rotaia, quel particolare sbandamento che si verifica sulle rotaie e in velocità sui piccoli dislivelli tra le corsie delle autostrade. È confortevole per la sua particolare struttura flessibile. Pneumatici, ma non solo, le scarpe con suole e tacchi di gomma, soprabiti e impermeabili, costumi da bagno, oggetti da spiaggia e d'acqua. Alla Triennale di Milano fino al 24 luglio, l'anima di gomma, estetica e tecnica al passo con la moda. Marta Cagnola ne ha parlato con il direttore della Fondazione Pirelli, Antonio Calabrò. C'è una materia, la gomma, con delle caratteristiche molto particolari, elastica, flessibile, adattabile, e c'è l'anima, che è immateriale. Abbiamo giocato con questi due elementi, mettendo insieme anche cose diverse, la memoria, cioè i bozzetti, le grafiche pubblicitarie, le fotografie fatte nel corso del Novecento e la loro reinterpretazione multimediale. La gomma era oggetto di moda, la moda è un racconto dell'evoluzione, dei costumi, dei consumi, del modo di vivere la modernità. Ecco, la mostra è un percorso attraverso tutte queste dimensioni. Più di un secolo di industria e di noi in pratica. Esatto, sono 140 anni di storia con dimensioni internazionali. Una riprova, Marilyn Monroe, era una testimonial della pubblicità dei costumi da bagno Pirelli nel 52. Era una giovane attrice, aveva fatto la modella, non era ancora famosa, lo sarebbe diventato nel 91, e intanto era comunque una testimonial per Pirelli. America, Milano. Non c'è poi grande spazio in mezzo. Parliamo sempre della storia delle imprese italiane, ma ora con un portale. Basta quindi un computer per visitare una mostra di grandi dimensioni, è sempre in progress. Archivi d'impresa, ideato e promosso dalla Direzione Generale per gli Archivi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, in collaborazione con Fondazione e Archivi Storici d'Impresa. Marco Montemaggi, vicepresidente di Musa Impresa. Porre su un portale web la maggioranza degli archivi industriali italiani, quindi con la possibilità per tutti, da tutto il mondo, di poter accedere a una parte, quella messa ovviamente in rete, di archivi dei più importanti marchi del Made in Italy. Considerando anche questo portale è in progress, nel senso che è un portale che può sempre aumentare le proprie diciamo associate a questo portale, mi sembra una delle iniziative più importanti per la cultura di impresa di questi anni, e sono molto contento che gli archivi di Stato abbiano fatto una cosa veramente innovativa. Quello che abbiamo fatto noi e di cui ci hanno appunto richiesto una collaborazione è stata quella di sollecitare i nostri associati, che sono più di 50, conoscere questa iniziativa e quindi, se vogliono, parteciparvi. Gli archivi industriali e aziendali italiani sono l'arca in cui viene custodito tutta la storia delle più importanti aziende del Made in Italy italiane. Il fatto che adesso si possa accedere da tutto il mondo a questo portale e poter consultare la storia di uomini, di brevetti, di tessuti, di meccanica, la conoscenza accumulata dal lavoro spesso di 50, 60, 70 anni di questi marchi, è una maniera in più per raccontare l'eccellenza del nostro paese. E ora la musica, un pianista e un violinista di solide basi classiche fra Scala di Milano, Mozarteum di Salisburgo e Royal Academy di Londra, Lorenzo Materazzo e Luca D'Alberto, che ora si cimentano con la modernità. Loro si chiamano X-Wave, sono il secondo album che si intitola Plagiarism. Perché? Lo abbiamo chiesto a Lorenzo Materazzo. Per noi il concetto di plagio è fondamentale, per noi è sia un motivo di ispirazione sia una sorta di provocazione verso proprio il mondo della musica di oggi. Oggi è veramente difficile essere originali, creare qualcosa di nuovo. Perciò noi siamo partiti invece proprio da questo punto, cioè abbiamo detto cerchiamo di ispirarci a qualcosa che è già stato fatto, prendendo spunto, no? Quindi dallo stile di un gruppo piuttosto che da un altro. E per noi significa cercare di rielaborare le cose che ascoltiamo da sempre, filtrandole, ecco, proprio con le nostre conoscenze di musica classica, di musica un po' più colta. E poi a me è piaciuta, ti confesso, tantissimo la copertina, che è molto particolare. Sulla copertina trovi dei personaggi famosissimi che hanno influenzato la nostra vita di musicisti classici e ascoltatori di musica altra, cioè di musica moderna, di musica pop. Trovi da in alto c'è Schumann, c'è un po' sulla sinistra quell'uomo di profilo col baffo, quello è Arturo Benedetti Michelangeli, il pianista più famoso della storia, insieme a Glenn Gould, che è anche in basso a sinistra, altro pianista famosissimo. Questi personaggi li trovi mescolati a Tommy York dei Radiohead, ce ne sono tantissimi, il cantante dei Cure, poi trovi Ozzy Osbourne, quindi comunque anche dalla copertina abbiamo voluto lanciare un po' questo messaggio. Una curiosità, perché avete deciso di fare la cover di Poker Face di Lady Gaga? Quella è stata più una mossa, una specie di sfida per noi, nel senso che abbiamo detto che cover vogliamo fare, prendiamo una delle più difficili che ci viene in mente, perché come puoi immaginare fare una cover di un brano così conosciuto dove la melodia è un po' così, no? Spiattellata lì e sentita centinaia di volte la radio, non era facile, quindi ci è piaciuta questa sfida. E anche per questa puntata di Punte a Capo è tutto. Grazie in regia a Mauro De Angeli, da Alessandra Tedesco una buona giornata e ci risentiamo sabato prossimo.